Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Mie care eclettiche, miei cari eclettici, è un'altra sera da passare assieme sulle frequenze di Rock FM per un'ora fra le 19 e le 20. Però, nel caso non possiate rispettare questo orario, sapete che avete a disposizione il podcasting per scegliervi l'orario a voi preferito. Tutti i dettagli li trovate su myspace.com/eclettica oppure su www.radiorockfm.com. Una pazza. Era una pazza. La donna col vestito rosso che ballava sopra il tavolo era una pazza, gli dissero. Questa sarebbe stata la prima informazione su di lei, se le parole fossero state più forti delle immagini. Un polpaccio sodo, muscoloso e flessibile, dai contorni perfetti sotto le calze a rete da ballerina. Migliaia di triangolini neri sul biancore della pelle, come una minuscola scacchiera vista in diagonale. Diamanti perfetti, che risplendono nel vortice della danza. Questo era l'incipit di Nostra Signora della Solitudine di Marcela Serrano. Always a dotted line to blame. There's always laugh tracks in one shows my little finger, but I can't complain. I got this way by laughing at the side of things. It's like we're cursed, we're always first to watch as our hopes hit the dirt. But we don't mind, we always find another guinea pig to fry. I like to think that I can sing. I don't know who you think you are, but we're dancing. Well, look at what we have here. Ain't you gonna introduce me to the lady? I'd like a dance. I wouldn't give you that pleasure. You'll just have to go ahead and shoot. True love regrets to inform you. There are certain things you must do to perceive his face. In the stains on the wall, I didn't know what time it was at all. I didn't know what time it was at all. Foam hands, been gone since you've been gone. Me and the king have been steadily growing apart. He lives down the hall. I didn't know what time it was at all. I didn't know what time it was at all. Foam hands, I'm not the kind to tell you what is totally out of control. I didn't know what time it was at all. I didn't know what time it was at all. Dotted Lines, un inedito da parte di Electric President, il brano con cui si è aperta Eclettica questa sera, un inedito da parte di Electric President dopo l'album di esordio che ormai risale a circa 2 anni fa, a parecchio tempo fa. Per ora quindi solo un brano, per un album c'è ancora da attendere qualche mese. Poi ci siamo ascoltati, a proposito di album, una anticipazione del disco che uscirà per la Merge il 18 di marzo, dal titolo Trouble in Dreams, a nome Destroyer. Anticipazione che ha per titolo Foam Hands e che si è appena chiusa. Ed Eclettica che prosegue invece con un'altra novità, che però è anche novità per quanto riguarda le nostre playlist. Sto parlando del nuovo album degli Hot Chip Made in the Dark, che uscirà il prossimo febbraio, che viene anticipato da Ready for the Floor, però non nella versione originale, ma in quella che è definita Soul Wax Dub. We'll be right back. Mia nonna mi insegnò a leggere. Mia nonna mi mostrò i libri e mi trasmise il suo amore per loro. Non ebbi scelta, fu la sua eredità. Mia nonna mi disse che con i libri non mi sarei mai sentita sola. Questo era l'incipit del Tempo di Blanca, di Marcela Serrano. Maybe I'll just take my $80 worth out of her. Whoa. Yeah. I bet there's something you can do that's worth $80. I believe you've underestimated me, mister. What have I now? The divento vecchio e noioso, pietoso e ridicolo. Vorrei gettarmi nel vuoto e finire distrutto, un rutto e una lacrima. Ma ora sono felice, sono tanto allegro, che bello vivere a me. Ed ora sono felice, sono contento e i miei giorni ridono con me. In silenzio affogare in mare o in un bidet. E poi al supermercato ho preso un litro di vino, una penna e una busta blu. Blu. Ed ora sono felice, sono tanto allegro, che bello vivere a lei. Ed ora sono felice, sono contento e i miei giorni ridono con me. Chissà se mi rimpiangerai. Sono felice, sono tanto allegro, che bello vivere a lei. Ed ora sono felice, sono contento e i miei giorni ridono con me. Eclettica è un girare nel mondo della musica, nel toccare le sue diverse sfaccettature, i suoi diversi aspetti, ma nel fare questo è anche un giro nel mondo reale, è un giro nei diversi paesi, come per esempio Sia, che ci siamo ascoltati qualche minuto fa con Electric Bird, che proviene dall'Australia, e poi dal Lazio, i due fratelli che hanno deciso di adottare il nome Cuzzo come nome di gruppo. Lo trovate scritto correttamente ovviamente nelle playlist di Eclettica che ci hanno appena fatto ascoltare Ale, oppure con la Svezia che chiude la prima parte di Eclettica di quest'oggi, Göteborg per la precisione, una nuova produzione Labrador, loro si chiamano Sambassador, sono un quartetto che ci ascoltiamo dall'album dal titolo Migration, uscito a fine ottobre, con il pezzo intitolato Subtle Changes.